Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, un buon sabato, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, 19:15 minuti in questo esatto istante. Allora, i saluti vi vengono anche da Alice Cosilli, Laura Fagini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e Giorgio De Luca in assistenza. Naturalmente anche questa sera potete inviare domande o commenti, le coordinate le conoscete ma ve le ricordo, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, poi c'è la nostra pagina Facebook nessunluogolontano-radio24, infine potete cinguettare a nessunluogo24. E dunque questa sera ripartiamo da dove ci eravamo lasciati sabato scorso, ovvero andiamo in Egitto e in particolare a Port Said. Port Said, il principale porto egiziano, teatro di violenti scontri dal 26 gennaio in poi. Abbiamo visto una città militarizzata, carri armati ovunque, esercito dispiegato in tutte le zone nevralgiche, ma di polizia neanche l'ombra. Allora, chi ci ha seguiti sabato scorso ha udito la voce di un black bloc che abbiamo intervistato al Cairo. Vi dicevo sabato scorso appunto quanto sia difficile inquadrare questo fenomeno, quanto sia spontaneo, quanto organizzato. E una cosa è certa, lo scopo è stato raggiunto: visibilità, attenzione mediatica. I black bloc hanno guadagnato una ribalta, ricorderete, chi sfoglia anche i giornali internazionali o va a spulciare i siti dei grandi network avrà visto le foto che campeggiavano queste maschere nere, in alcuni casi con il logo della squadra di calcio El Ahly sul viso. Si è data la sensazione che qualcosa di nuovo vi fosse nelle piazze, nelle strade egiziane, Port Said, Alessandria e il Cairo. E noi ci siamo recati a Port Said proprio per incontrare un altro black bloc. È un ragazzo giovane, ben piazzato fisicamente, colto, e non accetta di registrare la sua voce, però parla e aggiunge sfumature e dettagli a questo fenomeno. Innanzitutto rivela che Port Said la situazione è forse un po' differente da quella sotto i riflettori del Cairo. Dice che a Port Said le milizie dei Fratelli Musulmani stanno in effetti prendendo le strade e la polizia non si vede più, e questo spiega il forte dispiegamento dell'esercito che abbiamo visto. Questa persona, che chiameremo Mohammed, ci ha sussurrato che vi sono gang criminali responsabili dei disordini di fine gennaio che verrebbero dal vicino villaggio di Manzala. È un piccolo villaggio che sorge sulle sponde di un lago. Sono ex pescatori che con la crisi si sono riciclati come mercenari. Mohammed ci riferisce che addirittura qualcuno parla di milizie legate ad Hamas, ma per noi è stato impossibile verificare l'informazione. In questa Port Said, che a dispetto delle vie graziose, dei negozi aperti, ha rivelato in qualche modo un suo lato oscuro, cerchiamo di indagare meglio la disponibilità di armi nella zona. Riusciamo a capire che bastano 1000 euro, bastano si fa per dire, per avere una pistola, 5000 euro circa per una K-47, il Kalashnikov, la metà per l'M16 americano. Perché costa meno? Perché non si trovano facilmente le munizioni. Tutto questo traffico di armi trova il suo luogo privilegiato proprio nel porto di Port Said, dove, confida Mohammed, arrivano anche i mitragliatori pesanti, quelli da 23 mm da montare sui pick-up. Però la gente a Port Said preferisce le pistole perché si nascondono più facilmente, e lui stesso mi mostra alcune foto sul suo telefonino mentre, vestito di nero, impugna una pistola Beretta. E mi racconta meglio che cosa vuol dire essere black bloc a Port Said. Black bloc è un'idea che tu puoi abbracciare, ma dice, se tu vai in TV dicendo io rappresento i black bloc, allora non lo sei. Ci vuole qualcuno che difenda i manifestanti dalle milizie dei Fratelli Musulmani e dalla polizia. E allora, dice Mohammed, quando ci sono incidenti, ci vestiamo di nero e scendiamo per strada. È una cosa spontanea, spiega, noi non ci mettiamo d'accordo, addirittura non ci conosciamo fra noi e nessuno di noi sa quanti siamo realmente. E quindi il punto di forza di questo fenomeno così sfuggente è proprio questo. Nessuno sa chi sono, chiunque può entrare, perché vestendo la maschera nera diventa un black bloc, allo stesso tempo questo punto di forza è il punto di debolezza, cioè non vi è controllo. Durante la nostra permanenza a Port Said raggiungiamo prima al telefono, ma poi riusciamo a convincerla a incontrarci di persona per verificare la veridicità della fonte, un poliziotto, uno di quelli che lavora nelle quattro stazioni di polizia di Port Said, città di 500.000 di abitanti. E lui ci ha raccontato l'attacco del 26 gennaio alla prigione e alle stazioni. Ha confermato la massiccia presenza di armi nelle strade e ci fa vedere anche un video girato proprio dalle forze di sicurezza in cui si vedono AK-47 e pistole in mano a miliziani che, molto agili e veloci, si aggiravano per le strade di Port Said in sella a motorini e a motociclette. Insomma, se la situazione in Egitto è esplosiva, Port Said lo è ancora di più, per cui quella città sicuramente è da tenere d'occhio, ma adesso vi racconto un'altra storia. Cambiamo decisamente argomento perché siamo sempre in Egitto, però vi porto al Cairo e vi porto nella sede del Wadi Degla, che è una squadra egiziana della capitale. Siamo nel tranquillo e borghese quartiere di El Mahdi, siamo al quartiere a sud della capitale, molto lontano dai tumulti di Tahrir e dagli scontri del palazzo presidenziale. Vi faccio sentire alcune voci di calciatrici del Wadi Degla. Weird, but my family is normal, and it's my friend, my friends also. Le voci che sentite sono quelle di Nevin, di Rama e di Amri, che raccontano come hanno iniziato a giocare. Hanno iniziato a giocare per strada, con gli amici, magari 3 contro 3, 4 contro 4, nei vicoli del Cairo, ma anche nei villaggi delle zone rurali. E molti ci hanno raccontato, pensavano fosse veramente strano che una donna si appassionasse al calcio. Però la maggior parte delle famiglie di queste calciatrici invece garantiscono il loro appoggio. Capiremo anche meglio perché. E allora abbiamo incontrato anche il coach, l'allenatore di questo gruppo di ragazze, Mohamed Kamal, e a lui ho chiesto quali sono i punti ardui di questa sfida, cioè far emergere il calcio egiziano in un mondo, quello del football, appunto, del paese dei faraoni, estremamente rivolto al maschile. La prova che le donne sono allo stesso livello di professionisti maschi in un paese del Medio Oriente come l'Egitto, questa è la sfida. La squadra femminile può competere e raggiungere lo stesso livello delle squadre europee. Hanno già viaggiato in Inghilterra, Germania e altri paesi. Secondo me, la differenza tra le squadre europee e la nostra sta nell'attitudine e nell'ambiente. Can you explain us how does it work? A Mr. Kamal spieghiamo un po', chiediamo di spiegarci come funzioni questo campionato femminile in Egitto, quante squadre e quanti club. Abbiamo due gironi per un totale di 14 squadre. Si gioca il campionato e poi le 6 migliori entrano a far parte del gruppo dei super. Ogni squadra gioca con le altre sia l'andata che il ritorno e la squadra più forte vince. Un'altra sfida è quella per la Coppa. È costituita da 10 squadre e mano a mano che le squadre perdono vengono eliminate. Per la Coppa si gioca ormai da 4 anni. How many people in average? E qua veniamo insomma alle note dolenti. Chiedo quante persone in media vanno allo stadio per vedere una partita di calcio femminile. Non c'è pubblico, solo i parenti delle giocatrici. E poi ci possono essere membri del club o persone che hanno una partita dopo. Principalmente sono solo parenti delle giocatrici. What the Egyptian female soccer need? Abbiamo chiesto al mister Kamal di cosa hanno bisogno le calciatrici per migliorarsi rispetto, ad esempio, ai riferimenti delle squadre italiane o tedesche e quali sono le differenze con il calcio femminile europeo. Il punto principale è che le nostre calciatrici hanno bisogno di più attenzione e pubblicità, ad esempio da parte dei giornali. I giornali riempiono pagine sui problemi fisici di calciatori maschi, ma le donne, anche se dovessero vincere il campionato, riceverebbero un piccolo spazio. In which way do you think to... E in che modo, chiedo al mister, pensa che il calcio femminile possa guadagnare l'attenzione del pubblico, che è una cosa che, insomma, il calcio femminile egiziano ha disperatamente bisogno. Attraverso la scuola. Se tutte le scuole del paese si concentrassero nella promozione di questo sport, le giocatrici migliori potrebbero andare nelle scuole e così il calcio femminile diventerebbe uno sport conosciuto. The last questions are about the political situation now. Ecco, e poi cerchiamo di indagare la situazione politica. Chiedo a mister che cosa è cambiato, lui come allenatore e per la sua squadra ovviamente. Prima durante l'era Mubarak, poi durante la rivoluzione e ora con il governo dei fratelli musulmani. Vogliamo sapere quanto i fatti politici influenzino il calcio. Political facts affect the soccer in a way, I don't know which way. Non ci hanno influenzato, ma se la situazione politica restasse così a lungo potremmo venire influenzati. Sotto Mubarak c'era l'impressione di normalità nel praticare calcio femminile, ma anche ora non subiamo alcun condizionamento. Ha paura che qualcosa possa accadere? Probabilmente. The last question is about the economy. Le ultime domande riguardano, diciamo, l'economia del club. È un edificio molto bello, c'è un bellissimo campo da calcio. Non è comune trovare un club come questo in Egitto e quindi ho chiesto come viene finanziato il club e quanti soldi in qualche modo girano in un progetto di calcio femminile importante come questo. Sentite la risposta. Il management del club è concentrato nelle decisioni a favore dello sport, specialmente per le donne. Crediamo che lo sport non sia solo per uomini, ma per tutti, dai bambini agli anziani. Crediamo nel sistema al suo completo, non solo in una squadra. Ed è per questo che abbiamo finanziato la squadra anche nei periodi in cui non avevamo entrate. I read in an Egyptian newspaper that for the girls playing in this team. Allora, i giornali egiziani riportavano il fatto che le ragazze che giocano nel Wadi Degla non guadagnano ovviamente i soldi che guadagnano gli uomini, perché il calcio femminile, come dire, sta crescendo in questi anni, però per la maggior parte di loro le entrate che arrivano vanno alle loro famiglie e sono un sostegno importante per la famiglia. Ascoltate questo punto perché è importante. La prova che le donne sono allo stesso livello di professionisti maschi in un paese del Medio Oriente come l'Egitto. Questa è la sfida. La squadra femminile può competere e raggiungere lo stesso livello delle squadre europee. Hanno già viaggiato in Inghilterra, Germania e altri paesi. Secondo me, la differenza tra le squadre europee e la nostra sta nell'attitudine e nell'ambiente. Eh no, piccolo errore di questo, chiedo scusa, è andata in onda la risposta alla prima domanda. Riguardo a, come dire, il sostentamento economico alle famiglie, la cosa interessante è che l'80% delle ragazze che gioca nel Wadi Degla aiuta le loro famiglie. E questo in particolare, come dire, diventa importante da quando l'economia è precipitata e il turismo è assolutamente calato. Quando le ragazze conseguono buoni punteggi, vincono coppe o tornei, hanno anche un bonus economico. E grazie a quel bonus, gran parte di loro, ad esempio, si sono comperate una macchina. Questa era in qualche modo la fotografia che volevo regalarvi di una storia al Cairo, così distante dagli scontri di Piazza Tahrir. Andate a sbirciare se avete internet sotto mano sul blog di Nessun Luogo Lontano, radio24.it, cercate Nessun Luogo Lontano e poi c'è il blog, lì ho postato una gallery, insomma vedrete i visi, le facce e Ramla, Amri e Nevin in azione e proprio lì nel campetto del Wadi Degla. E sulle note di Raïs, di El General, rapper tunisini, quelli che hanno dato un po' la sigla alla rivoluzione, ci spostiamo a Tunisi. In queste ore in Avenue Bourguiba migliaia di persone sono radunate per la manifestazione indetta dal partito islamista al potere, Ennahda. Ennahda vuole ribadire la sua legittimità a stare al governo, messa in discussione dopo l'assassinio del leader dell'opposizione Belaid. Ricapitoliamo brevemente gli ultimi giorni di una crisi che sta minacciando la stabilità del governo tunisino e dell'intero paese. Mercoledì scorso vi dicevo, l'autista di Belaid apre il fuoco, uccide l'uomo politico. Immediata la risposta della piazza, però anche pacifica, che ha puntato il dito contro gli islamisti. Allora il primo ministro Jebali ha annunciato che avrebbe formato un nuovo governo tecnico e soprattutto apolitico. L'annuncio era atteso per oggi. Però ha spiazzato tutti e la sua segreteria ha fatto sapere che se ne parlerà lunedì. E allora cerchiamo di capire meglio che aria tira a Tunisi. Lo facciamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buonasera, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a tutti voi. Allora, tu eri a Tunisi la settimana scorsa, che aria tira nella capitale? Quanto questo lutto ha aperto una crepa, no, in quella troica che sta al potere e soprattutto negli islamisti, secondo te? Ma innanzitutto abbiamo avuto una fortissima reazione di una parte della società che ha rivelato la spaccatura tunisina tra l'ala più laica e secolarista che ha l'opposizione e la coalizione dominata dal partito Ennahda che ha il governo. Era una spaccatura che in realtà già era ben evidente anche nei mesi scorsi. Io, prima ancora dell'omicidio di Shukri Belaid, avevo passato una settimana prima a Tunisi, dove avevo interpellato parecchie persone, visitato molti luoghi dove si erano manifestati segni di insofferenza di fronte all'avanzata soprattutto degli islamici radicali, sia delle correnti di Ennahda più estremiste, sia soprattutto di quei gruppi che fanno riferimento ad Ansara Sharia, sì, e addirittura gruppi in qualche modo simpatizzanti per Al-Qaeda, che erano stati protagonisti di atti vandalici. Per esempio in Tunisia in un anno sono stati bruciati, incendiati o attaccati 37 mausolei sufi, insomma l'espressione dell'Islam più tollerante. Addirittura c'era stata una fatwa contro le celebrazioni del compleanno di Maometto, che era una festa tradizionale dei tunisini, distrutta la tomba di Haddad, che era stato il grande pensatore riformista della Tunisia. Predicatori islamici che si sono impadroniti di circa 500 moschee dentro il paese, elargendo sermoni infuocati a favore di una forte islamizzazione del paese. Insomma, una situazione che evidentemente stava già degradando ancora prima dell'omicidio di Belaid, che è stato, come dire, il colpo di pistola, sì, letteralmente, che ha fatto esplodere la situazione. Adesso il problema rimbalza dalle piazze alle istituzioni, sì, no? Manifestazioni di piazza e poi crisi di governo istituzionale. Oggi in realtà Ennahda, con questa manifestazione che non ha portato in piazza milioni di persone, forse in cui loro speravano, è stata l'occasione in realtà per il leader storico e carismatico Rachid Ghannouchi di riaffermare la leadership sul partito, sulle ali più, come dire, moderate e compromissorie, in particolare nei confronti del primo ministro Jebali, che vorrebbe formare un governo tecnico che è ancora tutto per aria. Sì, ecco, fra l'altro appunto si è visto anche quasi un tentativo di smarcarsi, no, da parte di Jebali rispetto a Ghannouchi, il quale questa sera ha un po' mostrato i muscoli e non è andato per il sottile, perché ha detto: primo, non lasceremo il potere; secondo, testualmente, ripuliremo i media. E questo insomma diventa un problema, perché la stretta non solo sugli organi di informazione, ma anche, insomma, tu citavi i mausolei sufi, ma anche chi ci segue ricorda la storia che riferimmo di Nadia Gelassi, artista, scultrice e insegnante delle belle arti, non solo minacciata da estremisti salafiti, ma poi sotto processo per aver realizzato opere offensive verso l'Islam. Alberto, secondo te la società tunisina, io ho avuto questa impressione, ma la mia ultima visita risale a settembre dell'anno scorso, dopo l'attacco all'ambasciata americana, A me pare che la società tunisina abbia gli anticorpi per reggere l'urto di questa deriva islamista. Secondo te, tu che hai una visita più recente, che impressione hai avuto? Guarda, l'impressione e la speranza, e anche la condivido, cioè sappiamo che la Tunisia è un paese altamente civilizzato, nel senso che c'è un forte livello educativo anche tra i giovani, che c'è un atteggiamento anche abbastanza moderato da parte in generale di gran parte della popolazione. Tutto questo è vero, è verissimo. Però temo anche molto le spinte disgregative, e questo è uno degli aspetti forse più, come dire, inquietanti. In questi giorni, per esempio, giravano delle ronde con delle casacche arancioni formate da militanti di Ennahda che tenevano, come dire, l'ordine nei quartieri, ecco, si appoggiavano anche forse a elementi del Ministero degli Interni, ma c'erano stati episodi che si erano visti molto chiari, per esempio 3 giorni prima che ci fosse l'omicidio di Belaid, la sede del suo stesso partito, era un sabato sera, ero lì, è stata attaccata da militanti salafiti e la polizia non è intervenuta, la sede è stata difesa dai militanti di Nida Tunes. Insomma, ci sono dei segnali preoccupanti, ma il più preoccupante di tutto e di tutti è che c'è una forte contrapposizione anche tra le varie aree del paese. Chi sta sposta non condivide le stesse situazioni, per esempio, di degrado anche sociale, economico, che ci sono all'interno del paese. Sì. L'est si contrappone all'ovest, le spinte disgregative dello tunisino che somigliano molto purtroppo a quelle che ci sono in altri paesi della prima dell'altra. Ecco, hai toccato, Alberto, credo un punto importantissimo, perché tra le grosse emergenze della nuova Tunisia e in questo, come dire, il fattore la comuna all'Egitto, c'è una crisi economica incredibile, altissimi tassi di disoccupazione, specie nelle zone rurali. Quello che ho potuto vedere nei quartieri più poveri di Tunisi è stata intanto una grandissima disperazione, e quando c'è una grandissima disperazione e quindi manca la speranza, e allora certi discorsi infuocati possono attecchire molto più facilmente rispetto a quando, insomma, una famiglia ha i soldi per comprare il pane. Ricordiamo che la grande rivoluzione tunisina nacque poi per quello, perché non c'era più il pane. Quanto secondo te la crisi economica e questa disoccupazione incredibile possono alimentare gli estremismi? Maniera direi abbastanza determinante. Io addirittura di decenni fa della Tunisia assistetti nel 1981 a Bizerta all'ascesa del movimento di tendenza islamica che era allora il movimento di Gannucci, formato alla fine degli anni 70, primi anni 80, che aveva appena vinto le elezioni universitarie con l'80% dei voti prima di essere messo fuori legge, e a Bizerta, nei quartieri sì, poveri, erano cominciate a girare le ragazze col velo, perché questo partito riceveva allora soldi dall'Arabia Saudita e in qualche modo faceva proseliti tra gli stati più poveri della popolazione. Ma oggi qui è veramente drammatica. L'Università di Tunisi, piccolo sondaggio, diciamo un po' ombroso, sì, ma parlando insomma anche con il sindacato studenti, praticamente 7 laureati su 10 non trovano lavoro. Questo è il dato. E in più il modello di sviluppo tunisino dei tempi di Ben Ali, cioè le aziende per l'esportazione che avevano il loro commercio con l'80% con l'Unione Europea, sono in crisi perché è in crisi l'Europa, quindi il turismo è calato, come sapete, e nessuno naturalmente in questo periodo ha pensato a nessun altro modello di sviluppo alternativo. E quindi non ci resta che attendere intanto le mosse politiche istituzionali, e vedremo lunedì appunto se ci sarà l'annuncio di questo governo tecnico, e poi chiaramente aspettare le risposte delle strade e delle piazze di Tunisi. Grazie Alberto Neghi per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi. (349) 238 6666, se volete commentare i temi di questa puntata. Dalla Tunisia ci siamo spostati, scusate, dall'Egitto ci siamo spostati in Tunisia, e poi adesso torneremo in Libia. Facebook è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Vi ricordo che se volete vedere le facce e abbinare le voci delle calciatrici, andate a sbirciare sul blog di Nessun Luogo è Lontano. Ci arrivate dal sito della radio, radio24.it, e troverete una piccola gallery di scatti che ho fatto proprio lì al Wadi Degla. E allora continuiamo questo nostro viaggio da Port Said al Cairo, poi a Tunisi e poi torniamo indietro, torniamo verso est, andremo in Libia, ma subito dopo le informazioni sul traffico. Nessun luogo è lontano. Ed era iniziata così il 15 febbraio del 2011, una protesta a Bengasi, poi due giorni dopo l'inizio di quella rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre il volto del paese nordafricano. E Carmelo Lauricella, giustamente in regia, adegua la colonna sonora e ci fa entrare, ci fa calpestare la sabbia libica grazie anche alla musica. L'economia dell'informazione è limitata, anche l'attenzione di chi ne fruisce, no? Degli ascoltatori, degli spettatori, dei lettori. Quando accade un conflitto i riflettori si accendono, è anche facile appassionarsi a quello che sta accadendo, e difficile viene poi dopo, quando bisognerebbe continuare ad andare in quei luoghi dove si sono consumate guerre civili o rivolte, andare a parlare con quelle persone che hanno vissuto quei tragici eventi e guardare negli occhi. Chi lo ha fatto è un fotografo inglese, si chiama Lewis Quayle. Adesso su Facebook posteremo il link al suo sito internet, così potrete vedere il suo lavoro completo. Nella nostra pagina Facebook la foto principale era proprio di una donna ritratta a Tripoli. Se avete internet sotto mano, andate a rivedere quella foto, che è incredibilmente potente. Lewis Quayle, fotogiornalista inglese, che ha ritratto questa donna anziana con questo fucile AK-47, il Kalashnikov, tra le gambe, seduta all'esterno di una casa a Tripoli. A lui ho chiesto dove ha scattato questa foto e qual è il significato di questo scatto. E come sentite, racconta Lewis, la foto è stata scattata a Tripoli, dove ha incontrato questa donna, si chiama Fatima Ali. Il figlio si chiamava Abdul Swisen. Voleva cercare qualcuno che fosse coinvolto in questo conflitto, racconta Lewis, in maniera intima. E questa donna aveva perso il figlio. È una storia piuttosto forte, dice il fotografo. Hanno resistito a Gheddafi per molto tempo in questa lotta occulta, questa lotta underground, non alla luce. E alla fine, quando poi le forze dei ribelli sono arrivate da Misurata e da Bengasi, lo ricorderete, e hanno raggiunto Tripoli, allora la gente è uscita allo scoperto con le loro pistole, con i loro Kalashnikov, unendosi alle milizie in città. È lì che poi Tripoli ha svelato totalmente il suo volto anti-Gheddafi. Ebbene, il figlio di questa donna, pensate, ha combattuto per soli 30 minuti. La sua resistenza armata, la sua vera lotta, se volete, è durata appena mezz'ora. E poi è stato ucciso dalle milizie di Gheddafi, dai lealisti. E infine, aggiunge Quayle, è una foto forte, puoi vedere gli occhi della madre devastati dalla perdita del figlio. Quindi Lewis Quayle ha fatto questo lavoro, credo, molto importante. È ritornato poi in Libia anche nel giugno dell'anno scorso. Ho chiesto a lui che cosa ha visto, quali segni della ribellione, della guerra ha visto negli occhi delle persone che ha incontrato, in che modo si sono manifestati i segni e il dolore della guerra civile. Racconta che è stato lì 6 mesi dopo la fine della guerra. Dice: un'emozione predominante non saprei dirtela, un mix di emozioni. Alcuni ovviamente contenti di aver avuto questa rivoluzione, Altri invece hanno iniziato a guardare avanti, con la volontà di avere un paese stabile e pacificato. Molti, ad esempio, ho visto, non erano assolutamente interessati ad abbracciare un estremismo islamico. La maggior parte voleva solo un paese democratico, simile, per esempio, alla Tunisia. Allo stesso tempo, racconta Quayle, le persone che ha incontrato non erano tutte state coinvolte direttamente nel conflitto. Alcune però magari erano state torturate durante l'epoca di Gheddafi. E poi racconta di questa foto che ha scattato e che troverete nei suoi lavori dal suo sito internet luisquayle.com, una foto che mostra delle fosse comuni. Lì ha incontrato due miliziani e uno di loro, due miliziani ribelli, uno di loro che prima di imbracciare il suo Kalashnikov faceva il dentista, gli ha detto che invidiava quei morti perché finalmente avevano raggiunto la pace. E lui dice, insomma, è un commento interessante, lui era incredibilmente invidioso dei morti. Questo ragazzo, questo giovane miliziano, ha riferito di aver ucciso 145 soldati di Gheddafi. E quando gli chiedevo come stava, racconta Luis Quayle, diceva, sto bene, anche se lui non sembrava aver trovato pace. Diciannove e 50 minuti in questo esatto istante, abbiamo tempo per voltare ancora pagina e in realtà rimanere sempre in tema fotografico, perché questa settimana sono stati assegnati i WordPress Photo, che sono il premio più ambito per chi cerca di raccontare i fatti che avvengono per il mondo con uno scatto. Allora mi aiuta a capire meglio chi ha vinto, perché ha vinto e che mondo è stato raccontato quest'anno. Sandro Iovine, buonasera. Buonasera Giampaolo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccolo, Sandro Iovine, critico fotografico, direttore del fotografo. Intanto postiamo su Facebook l'indirizzo per andare a vedere e godervi le immagini, wordpressphoto.org. Intanto la prima domanda, Sandro, che cosa raccontano queste foto e queste gallerie? Poi magari scendiamo nel dettaglio. Che mondo ci stanno raccontando? Che mondo ci hanno consegnato quest'anno? Beh, innanzitutto il WordPress Photo è il riflesso di tipo fotografico di ciò che le testate giornalistiche internazionali pubblicano, e queste a loro volta sono il riflesso di ciò che accade nel mondo. Per cui gli argomenti, anche quest'anno, come accade sempre, riflettono sinceramente gli avvenimenti più grandi che si sono verificati nel corso dell'ultimo anno, per cui abbiamo un impressionante numero di lavori dedicati per esempio al conflitto siriano piuttosto che ai soliti scontri in Medio Oriente e nell'area di Gaza. C'è un po' un adeguarsi, come sempre, a quelle che sono le esigenze della notizia, della cronaca. È difficile che si vada un po' oltre, e in questi casi ovviamente i grandi conflitti o i conflitti più sanguinosi, come possono essere quelli di cui accennavo prima, si offrono come uno spettacolo maggiormente probabile per quelli che sono gli operatori dell'informazione che utilizzano le immagini prevalentemente. Ecco, fra l'altro la Siria, appunto, dicevi, una delle situazioni più raccontate, anche una delle situazioni più rischiose per chi tenta di raccontare quel conflitto. E poi c'è il sempreverde, tra virgolette, problema, conflitto israelo-palestinese, e la foto che ha vinto il primo premio è di questo svedese, Polansen, che ha immortalato, la foto è molto forte, un funerale di due bambini che vengono portati in processione. Sandro, però poi la domanda, invito anche gli ascoltatori, se appunto hanno internet sotto mano, andare a scorrere un po' le gallerie, è come se alla fine vincesse inesorabilmente il dolore e la guerra. Perché c'è questa, come dire, dedizione da parte dei fotografi? È perché è più facile raccontare il dolore? È perché c'è un'irresistibile attrazione verso il lato oscuro degli esseri umani? Adesso, senza poi, insomma, fare approcci filosofici eccessivi. Sicuramente c'è sempre, da che esiste il WordPress Photo, c'è sempre una prevalenza di immagini che vanno in questa direzione, ovvero quella del dolore e della sofferenza altrui. Le motivazioni per cui questo avviene sono difficili da definire, anche perché gli input sono contraddittori in questo senso, ci sono le motivazioni di analisi possono portare in direzioni completamente opposte. Diciamo che da un punto di vista del fotografo è più facile ottenere delle immagini forti, potenti, che raccontano e coinvolgono lo spettatore nel momento in cui si va a raccontare qualcosa che incida profondamente sull'emotività umana, ed evidentemente le storie di sofferenza, le situazioni di grande dolore piuttosto che addirittura di morte incidono profondamente sulla nostra percezione, sulla capacità di coinvolgimento di chi guarda, e quindi si va più spesso a raccontare queste cose. Semmai poi sarebbe il caso di analizzare in altri contesti in che modo questo viene fatto. Sì, e fra l'altro chi invece ha seguito una storia, se vogliamo, più laterale rispetto al mainstream, e poi tra l'altro un fotografo italiano abituato a ricevere questo riconoscimento, è stato Paolo Pellegrin, che ha vinto il secondo premio fra le storie, quindi non lo scatto singolo ma una sequenza di storie. È andato in un quartiere di New York, Rochester, il quartiere si chiama The Crescent, dove c'è un'altissima impennata di criminalità, e ha fatto questo lavoro in bianco e nero che è effettivamente incredibilmente forte e incredibilmente efficace. Sandro. È sicuramente uno straordinario lavoro realizzato da parte di un fotografo notissimo e bravissimo. Non vorrei azzardare una cifra sbagliata, ma mi pare che siamo al nono premio WordPress Photo nella sua carriera, per cui è sicuramente lui una certezza. L'approccio, al di là di quello che possono essere i connotati estetici rimarchevolissimi di questo lavoro, va proprio all'operazione giornalistica del non concedersi a un lavoro di facile attrazione, quale può essere appunto i conflitti di qui sopra, oppure invece andare a cercare una storia tutto sommato minimale che non fa notizie, almeno dalle nostre parti, non assurge alle prime pagine quotidianamente come può essere stato per i conflitti. Questo è un punto di forza, una speranza anche dal mio punto di vista, per quello che è il giornalismo, il fotogiornalismo in particolare, e in questo senso voglio dire il WordPress Photo ci lascia anche delle altre speranze, perché tu citavi giustamente il lavoro di Paolo Pellegrin, che è meraviglioso nel suo genere, e io vorrei citare anche un altro lavoro che è stato premiato al WordPress Photo nelle storie quotidiane, che è il lavoro realizzato da Fausto Podarini, un altro fotografo italiano che era già stato premiato a Lodi al World Report Sì, al Festival Internazionale, ricordo. Eravamo insieme, e hai fatto bene a citare il lavoro di Fausto. Sandro, è una storia minimale, storia di Alzheimer, un lavoro lunghissimo, molto bello, insomma. Postiamo su Facebook anche il link a quel lavoro, perché esula un po', se volete, dagli esteri, dalla grande attualità internazionale, ma merita. Grazie Sandro Iovine, critico fotografico, direttore del fotografo, per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro. Buona serata. Ebbene, allora ho 30 secondi, quindi questa volta, non come sabato scorso, riesco a ringraziare con un attimo di fiato. Intanto in regia Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca in assistenza, Alice Cosilli e Laura Fagin che hanno confezionato con me questa puntata. Ringrazio ovviamente voi, gentili ascoltatori, per essere stati con noi anche questo sabato. L'appuntamento è sabato prossimo, ore 19:15. Ricordate che sempre nessun luogo è lontano.